Attenzione a 10, c'è qualcuno? Attento a 10. Non è mai un demo, che? Oh, attenzione a 10. Hola? C'è qualcuno? Che è avanti? Sezione 10, c'è qualcuno? Ora. Che è avanti? Sezione del canale 10, c'è qualcuno? Avanti che devo entrare. Avanti, avanti che vuole entrare.